e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti, bentornati a Cuore Denari. Siamo con voi per finire la settimana in bellezza. Non perché ci siamo belle qua. Esatto. E invece, a dirla tutta, l'argomento con cui apriamo la puntata non ci mette proprio di buon umore, quindi ci fa venire un po' le rughe, ci incartapecorisce la faccia, ci fa, come dire, non ci rende proprio belli. Nella pagina di Denari torniamo ancora una volta sul tema dei maxi conguagli in bolletta, una pratica pessima a cui a quanto pare ormai si sono convertite a pieno regime le società di distribuzione di gas ed energia elettrica. Allora, è arrivata anche a voi una bolletta salatissima e del tutto inaspettata. Come state gestendo la cosa? Raccontatecelo subito all'800 24 00 24. Ci sarebbe anche una buona notizia: l'arrivo della cosiddetta bolletta 2.0, nuova, più comprensibile, più semplice. Avete notato questo cambiamento? In realtà, se poi contestualmente è arrivato anche il maxi conguaglio, la bolletta più chiara non è che sia, come dire, stata proprio aiuti, la buona notizia, aiuti. Allora, perché peraltro torniamo a parlare del maxi conguaglio? Perché ieri c'è stato un altro appuntamento al Ministero dello Sviluppo Economico, a cui hanno partecipato operatori e associazioni dei consumatori. Pare che ci sia ancora un nulla di fatto, discussione rinviata a marzo. Noi ci faremo raccontare qualcosa fra un po' dai diretti interessati. E invece noi non rinviamo, perché oggi è l'ultimo venerdì del mese, quindi torna l'appuntamento con Salute Uomo, che è lo spazio dedicato alla promozione della salute maschile a tutto tondo. È una occasione per dare voce, senza falsi pudori e inutili timori, a tutte le vostre domande, i vostri dubbi, per raccontare le vostre paure, per affrontare temi e problemi di cui magari non avete avuto il coraggio di parlare col vostro curante, che tenete anche nascosto al vostro partner. L'informazione, l'abbiamo detto tantissime volte, è un ingrediente essenziale della prevenzione, quindi chiedete senza imbarazzo, vi risponderemo con chiarezza e rigore scientifico. Nella puntata di oggi ci concentreremo su tre sintomi: bruciore, dolore e rossore. Possono manifestarsi insieme o isolatamente, possono comparire all'improvviso gradualmente, variare per durata e intensità, potrebbero essere disturbi temporanei assolutamente innocenti, solo un po' fastidiosi, ma anche segnalare infezioni virali, batteriche, infiammazione dell'apparato urogenitale, quindi meglio vederci chiaro. Che dite? Ma dato che prevenire è meglio che curare, oggi naturalmente vi diremo anche come evitare in futuro di confrontarvi con bruciore, dolore e rossore. Il nostro numero verde a vostra disposizione: 800 24 00 24. Abbiamo persino disturbato Adriano Pappalardo, cantava questa canzone, non me lo ricordo neanche più il nome di questo cantante. Dicono allora, di sì. Ricominciamo a parlare di bollette. Ci sarebbe piaciuto tornare sull'argomento con qualche bella notizia, invece dobbiamo di nuovo farlo con un piglio un po' polemico. E questi conguagli dei quali parliamo questa mattina sono proprio maxi, proprio extra large, perché in genere i consumatori si vedono arrivare, senza mai delle spiegazioni plausibili, bollette da migliaia e migliaia di euro. Parliamo di consumatori, ma anche di imprese e piccole imprese, perché poi c'è un focus necessariamente da fare anche su questo mondo. Ieri era previsto un nuovo incontro dei rappresentanti del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, le società di distribuzione di gas ed energia elettrica, Ministero e Associazione dei Consumatori. Non abbiamo, a quanto pare, novità tanto brillanti. Poi faremo un punto della situazione con chi vi ha partecipato. Ma c'è anche un'altra novità da raccontare. Da gennaio, nelle case degli italiani, da gennaio appunto sta arrivando la bolletta 2.0. Un documento di poche pagine, un documento più chiaro, con poche essenziali informazioni. A noi sembra davvero un paradosso questo: da una parte la bolletta trasparente, dall'altra un comportamento a dir poco opaco sulle maxi bollette che proprio non si riesce a modificare da parte degli operatori. 800 24 00 24, cominciate subito a raccontarci quanto accade in casa vostra, se avete ricevuto già delle maxi bollette, delle bollette taglia extra large. Vedo già che il nostro centralino si sta animando e noi commenteremo i vostri casi con intanto un amico di Cuore Denari, Luigi Gabriele dell'Associazione dei Consumatori Codici, che non fa altro che istruire ricorsi su ricorsi per tutti i consumatori che si rivolgono ai loro sportelli. Gabriele, buongiorno e ben ritrovato. No, buongiorno, grazie. Buongiorno. Eccoci qua. E poi ringraziamo anche la dottoressa Clara Poletti, capo dipartimento per la regolazione dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Dottoressa Poletti, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Allora, devo fare una, tra l'altro, intervista proprio molto stringente alla dottoressa Poletti, che alle 10.45 deve lasciarci perché ha un altro impegno, per cui ci faremo raccontare tutto quello che si sta facendo in seno all'autorità per tentare di combattere questa pratica non tanto gradevole appunto degli operatori. 800 24 00 24 il numero verde che ribadisco potete comporre per raccontarci intanto se avete ricevuto la nuova bolletta 2.0, come vi trovate, l'avete trovata più comprensibile, le informazioni contenute vi hanno lasciato invece amaramente sorpresi perché la cifra riportata in bolletta non è esattamente quella che vi aspettavate, quindi siete rimasti coinvolti nel fenomeno dei maxi conguagli del tutto inaspettati, microfoni aperti ai nostri ascoltatori per tornare a denunciare queste situazioni. Dottoressa Poletti, comincio subito con lei. L'Associazione dei Consumatori Codici stima che quasi 10 milioni di utenti abbiano ricevuto almeno un conguaglio negli ultimi 5 anni e non sarebbe nulla di grave se parlassimo di conguagli di 10, 20, 30, 50 euro. Lei sa bene che invece parliamo di cifre ben diverse. Com'è mai possibile che l'autorità non riesca proprio a fare nulla? Perché la patata bollente in questo momento è in mano al Ministero dello Sviluppo Economico? Sì, grazie. In effetti quella delle maxi bollette è una pratica assolutamente deprecabile e giustamente, come diceva lei, in un mercato ben funzionante dovrebbe rappresentare un'eccezione inevitabile in alcuni casi, per carità, ma non certo una regola. L'autorità ha fatto tanti passi in avanti intervenendo sulla regolazione dei processi, per rendere i processi, migliorare i processi di funzionamento, in particolare è intervenuta sul rapporto tra distributore e venditore e sul rapporto venditore-cliente, perché naturalmente le responsabilità sono poi distribuite lungo la filiera, bisogna che tutto funzioni bene affinché al cliente arrivi un servizio efficiente e di qualità. In particolare faccio un esempio: nella complessità di questo mercato abbiamo molti fornitori che operano contestualmente e che si devono relazionare con altrettanti distributori e per questo l'autorità ha lavorato all'attivazione di un sistema informativo integrato che da giugno diventerà attivo per gestire i processi di switching di tutti i clienti. Noi ci aspettiamo, ad esempio, che l'attivazione di questo sistema informativo aiuterà non solo a migliorare proprio il processo di cambio di fornitore rendendolo più veloce e più certo, ma anche a aumentare la trasparenza del sistema, per cui se qualcosa non funzionerà riusciremo a capire meglio le responsabilità e ad attribuirle. Quindi, per fare un esempio, dottoressa Poletti, da giugno in avanti, la prossima estate io voglio cambiare il mio fornitore di energia elettrica, faccio dei nomi del tutto a caso e naturalmente non è una situazione reale, voglio passare da A2A di Milano ad Enel, ammettendo che questo passaggio, per quello che riguarda, diciamo, il mio grado di soddisfazione, risulti lento, complesso, se cominciano ad arrivare con ritardo le bollette perché i due operatori dialogano a fatica, come potrà intervenire questo sistema informativo integrato, appunto, gestito, intermediato dall'autorità? Che tipo di monitoraggio farà sulla mia personale operazione? Allora, sulla sua personale operazione il cliente, per semplicità del cliente, continuerà a parlare solo con il suo venditore. Quello che subentra? Sì, quello che subentra. Però questo venditore dovrà svolgere tutte le operazioni attraverso un portale, questo sistema informativo, quindi tutto resterà registrato e quindi riusciremo in caso di ritardi a risalire anche alle movimentazioni e alle responsabilità di dove sono collocati i problemi. Di chi ostacola sostanzialmente la portabilità della bolletta, chiamiamola così. E poi anche i tempi potranno essere accelerati. Naturalmente noi partiamo a giugno con prudenza perché non vogliamo creare potenziali problemi per i consumatori, ma man mano che il sistema andrà a regime anche tutti i flussi di informazione, cioè questo sistema informativo centrale diventerà diventerà un riferimento, un deposito di una banca dati importante a cui potenzialmente nel futuro anche le associazioni dei consumatori, se delegate dai consumatori, potranno accedere e quindi potrà diventare una leva di consapevolezza anche per loro. Senta, dottoressa Poletti, questo sistema informativo integrato però diciamo entra in vigore da giugno e sarà destinato a velocizzare un po' il passaggio da un operatore ad un altro e a limitare anche, secondo lei, il fenomeno dei maxi conguagli? Allora, sul fenomeno dei maxi conguagli io credo che bisogna intervenire su due elementi principali. Il sistema informativo integrato non sarà sufficiente, bisogna migliorare i sistemi di misura e su questo stiamo. Soprattutto nel gas c'è un problema di sostituzione dei misuratori esistenti con dei misuratori teleletti in modo che la lettura sia raggiungibile sempre e il dato possa essere raccolto e anche qui monitorato con certezza. E dall'altro lato, siccome questo è un processo che sta richiedendo tempo e più tempo di quanto noi vorremmo, riteniamo che l'obbligo di utilizzo dell'autolettura fornita dal cliente possa rappresentare un aiuto importante nella transizione. Quindi, però contestualmente bisogna che il cliente si attivi per dare questa autolettura. Ci aspettiamo dai venditori un approccio proattivo nel mettere a disposizione delle modalità di facilitazione nella comunicazione dell'autolettura. Siamo nel mondo digitale, oggi ci sono le app sui telefonini, ci sono sistemi user friendly. E invece ancora una volta, tante volte dobbiamo ancora lasciare, io per esempio che non posso fare intervenire l'operatore in casa, venire a controllare il contatore, devo sempre lasciare il fogliettino fuori dalla porta e va a sapere se questi qua mettono, come dire, l'indicazione giusta che io lascio. Poi certamente posso fare il controllo in bolletta, adesso io recentemente non l'ho fatta, ma generalmente non corrisponde, non corrisponde quasi mai, dottoressa Poletti, perché lei sa che aggiungono sempre qualche consumo in più, presunto, questa parola presunta, sempre ci ritroviamo lì in bolletta. E infatti il cambiamento delle modalità di raccolta dei dati di autoconsumo è un punto importante, cioè lasciare il bigliettino sulla porta nella società odierna sembra, come dire, non siamo proprio al 2.0. No, direi proprio di no, purtroppo non ci sono alternative, o entra l'operatore e va a controllare con noi presenti, oppure, detto questo, invece per l'energia elettrica e la luce appunto abbiamo la telelettura. Detto questo, dottoressa Poletti, io so che fra un po' devo lasciarla, un suggerimento da parte dell'autorità alle persone, poi metteremo tutti gli ascoltatori in mano a Luigi Gabriele, sono già pronti in tanti a raccontarci quello che... ma le voglio far sentire però un caso, perché qua ha veramente dell'incredibile. Senta che bolletta è arrivata a Vito da Roma. Vito, buongiorno. Buongiorno. Sì, che cosa? A me è arrivata una bolletta da 81.000 euro. Spero che non sia per consumo personale, Vito, avrà una piccola impresa. No, è una piccola azienda, abbiamo 6 operai, una piccola azienda. Però è tanto lo stesso. 81.000 euro, una botta. Che cosa fate lì dentro? Cioè feste dalla mattina alla sera, Vito? Sì, si lavora, ma il punto è che questa bolletta riguarda 30 mesi di conguagli. Ecco, che partono dall'1/1/2013 e poi arrivano a 30 mesi. Mm-hmm. Bene, cosa è successo? Ci siamo rivolti a una società che ci segue per alcune faccende energetiche, abbiamo fatto un reclamo a lei. Certo. Va bene, forse non dovevo dirlo. Non si preoccupi, Vito, guarda, tanto sono 4-5, non è che sono 2000 qua, per cui sempre quelli sono che fatto tanto tutti quanti ne hanno in piedi una. Una per tutti. Esatto, quindi vada tranquillo. La cosa che è successa è questa, è arrivato il distacco. La messa in mora è il distacco. Ecco. Mettendo in piedi un'azienda, in ginocchio un'azienda, No, praticamente dobbiamo chiudere. E quindi 7 famiglie sull'astico. Ma non è questo, non è solo questo, perché quando abbiamo cercato di far presente, io ho già scritto che siamo disposti a pagare una rateizzazione di 30 mesi, perché per alcune tipologie, questo è ammesso, no? Allora Vito, qua veramente io penso che ci siano anche i presupposti per chiedere i danni a questa società per ciò che le hanno causato. Sono già certa che Luigi Gabriele è in mente, è già lì che freme. Esatto, è già lì che freme. Adesso lo faccio sfogare per bene dopo il traffico, però un minuto di commento a Clara Poletti lo devo assegnare per forza. Volevo solo dire che noi siamo intervenuti su questo caso delle bollette anomale prevedendo che si debba procedere alla sospensione, prima di procedere alla sospensione della fornitura, se necessario occorre rispondere in modo completo e trasparente a tutti i reclami, per cui sicuramente Luigi Gabriele poi potrà anche spiegare meglio questa parte. Sì. Per quanto riguarda la rateizzazione di queste maxi bollette, oggi è previsto un obbligo per i servizi di tutela, ma non c'è un obbligo per il mercato libero. È proprio il tema aperto in questi giorni al tavolo, capire, trovare una soluzione a questi casi. Perché obbligatorio o meno, dottoressa Poletti, c'è un tema di buonsenso che qua quanto pare ci dimentichiamo sempre, e è veramente frustrante. Come si fa a mettere in ginocchio un'azienda con 7 operai? Famiglie. C'è un tema di pratiche commerciali scorrette a cui noi stiamo lavorando insieme all'antitrust, cioè alcuni comportamenti quando ricorrono a certe condizioni si configurano come pratiche commerciali scorrette. In un certo senso non c'è regolazione che tenga rispetto alla pratica commerciale scorretta, e anche nel buon senso, nel buon comportamento del venditore, non fare certe cose. E quindi Vito ha fatto bene a citare chi è, perché poi naturalmente anche la reputazione per questa società conta, per cui se male si comportano è bene che tutta la comunità lo sappia. Qua era Eni in questo caso che ha staccato la corrente a questa azienda. Grazie dottoressa Poletti per essere stata con noi. La richiameremo presto per farci raccontare quando parte il sistema informativo integrato, per capire come potrà essere utile a tutti i consumatori. Adesso abbiamo il traffico e poi torniamo insieme 800 24 00 24 insieme a Luigi Gabriele, ma ci aspettano Paolo da Lodi e Davide da Bergamo. Ottimo, a tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Cuore e denari. Sono svanito anch'io dalla tua lista, insieme alle giornate in cui ti amai. Ripensi a quei momenti come a un vizio che ci costò bollette, pianti e guai. Effettivamente qualche bolletta in arrivo, esatto. 81.000 euro, non mi va proprio giù. Luigi Gabriele, il caso di Vito da Roma, e chissà quanti ne gestite voi tutti i giorni presso i vostri sportelli. Io Luigi Gabriele lo conosco molto bene e so che ogni giorno non fa che imbastire pratiche, ricorsi, istruttorie varie appunto per fermare queste pratiche che sono a dir poco discutibili, per non definirle in altra maniera. Allora, partendo dal caso di Vito, ci fa un punto della situazione anche su quello che avete raccontato ieri al Ministero dello Sviluppo Economico, come mai questo tavolo si è risolto con un nuovo nulla di fatto, Gabriele? Non solo comunque sono deprecabili, per utilizzare la parola della Poletti, ma per utilizzare la parola dei distributori ieri, hanno preso una deriva. Ieri i distributori hanno detto che la colpa è dei consumatori perché non fanno l'autolettura. Quindi quel tavolo di ieri, secondo i distributori, testuali parole, stava prendendo una deriva, una brutta piega, perché noi pretendavamo che loro facessero l'attività per il quale vengono pagati. Tutti i consumatori adesso ricevono la bolletta 2.0, si guardino le voci, vedranno che c'è una voce in cui c'è scritto oneri per la distribuzione della misura, e guardino quanto pesa questa voce. Vedranno che peserà oggi più della metà della bolletta complessiva, cioè loro pagano per la vendita di energia o di gas meno del 50% del totale del 100% della bolletta. E invece le imposte più gli oneri per queste attività hanno superato il 50%. Questo grazie a una riforma di cui siamo stati completamente contrari, e per fortuna adesso i consumatori vedranno i risultati in queste settimane. Ma la cosa insopportabile è che noi paghiamo un'attività per farla fare, e invece questa attività non solo non viene fatta fare, ma le aziende chiudono per colpa di questi responsabili, oltre al fatto che i bilanci delle famiglie vengono completamente squassati. Perché l'azienda da 80.000 euro non è né la prima né l'ultima. Non solo queste attività subiscono dei danni nel momento più delicato della loro attività, in un momento storico in cui sappiamo anche 100 euro per un'azienda sono altro fondamentali. Che... Ma figuriamoci se il problema sia legato non a una loro manomissione o a una loro volontà di voler far furbi o quant'altro, ma a un'attività per il quale loro pagano già mese per mese per farsela svolgere. La cosa insopportabile è poi vedere questo ribaltamento di responsabilità, perché questo si tratta, un ribaltamento di responsabilità da parte di soggetti che dicono che i consumatori o gli utenti sono responsabili per la mancata acquisizione del dato. Noi abbiamo nell'energia il 99% di contatori telelegge, eppure il 16% delle fatture degli italiani sono stimati. Infatti, quindi, consumi presunti, sì, infatti quello che dicevamo prima con la dottoressa Poletti, per cui hai voglia, anche se i più attenti, solerti, fanno l'autolettura, inviano le comunicazioni, sappiamo bene che ci sono certamente consumatori disattenti, ma ci sono invece anche quelli assolutamente ossessionati da queste situazioni, perché sono attenti anche alle informazioni che passano in radio, che passano sui giornali, e quindi l'autolettura la fanno, e come trasmettono queste informazioni, poi arriva la bolletta e non corrisponde mai la cifra inviata rispetto a quella che c'è riportata appunto nella bolletta sui consumi indicati dalla società. Pertanto, Gabriele, adesso ricominciamo a sentire gli ascoltatori all'800 24 00 24. In questa fase ancora molto delicata, in cui queste deprecabili pratiche, come le abbiamo ribattezzate, continuano a circolare imperterrite, come gestite queste situazioni per i consumatori? Allora, domani arriva una bolletta del gas assolutamente improbabile per una persona che non sa da dove cominciare per lamentarsi, per fare reclamo, ammettendo appunto che venga a chiedere l'aiuto di un'associazione dei consumatori. L'iter per evitare il distacco, perché poi il terrore di tutti è quello, qual è? Beh, questo è fondamentale, perché poi loro fanno leva sulle paure delle persone, spingono a pagare cose che andrebbero approfondite, perché l'ultimo caso, giusto per dirlo, ieri un consumatore da 16.000 euro che doveva all'azienda, alla fine è lui creditore di 5.000 euro nei confronti dell'azienda. No, vabbè, questa ce la deve raccontare, sì. Cioè l'azienda pretendeva la restituzione di 16.000 euro, ha addirittura rivendicato un conguaglio da 16.000 euro, come avete fatto a fare i conteggi tali per cui addirittura il consumatore era creditore dell'azienda di 5.000? Pensa, Nicoletta, no, ma veramente siamo alla follia, eh. Noi ormai quotidianamente ci sostituiamo a loro, perché appena il consumatore vede un conguaglio, la prima cosa che deve fare è esserne certo che quel conguaglio in effetti sia dovuto, non solo nel tempo, la classica prescrizione ultra quinquennale, ma anche nel quantitativo, perché il tema fondamentale, ci rendiamo conto che molti degli operatori stanno sparando conguagli spesso sulla base di importi che effettivamente non sono fondati. Il fondamento si trova nel momento in cui in effetti c'è stata una rilevazione di quanto consumato in realtà. Questa rilevazione deve farla il distributore. Il consumatore, entro il termine di scadenza della fattura, deve contestare, nel momento in cui si rende conto che è impossibile che lui abbia consumato tutta quella roba lì nell'arco di tempo che gli viene richiesta, e in effetti non corrisponde con il stile di vita oppure con quello che ha dentro casa, oppure se si rende conto, guardando attentamente, che ci sono delle anomalie del tipo: più periodi vengono riportati più volte conseguenzialmente, oppure più importi non sono stati scomputati da quanto era stato anticipato, insomma devono fare il reclamo entro il termine di scadenza, questo è fondamentale. Tu devi scrivere sul pezzo di carta, e devi lasciare traccia che l'hai inviato, che chiedi un approfondimento di quanto ti è stato richiesto. Nel momento in cui chiedi l'approfondimento, o non ti rispondono o ti rispondono in maniera molto evasiva. Quando ti rispondono in maniera molto evasiva, ti devi subito allertare, ti devi rivolgere a un'associazione qualsiasi essa sia, perché in quel caso è fondamentale effettuare la ricostruzione dei consumi. La ricostruzione dei consumi si fa chiedendo tutti i dati puntuali, si verifica correttamente che il consumatore, che il misuratore abbia rilevato innanzitutto in effetti quello che è la realtà. Nel momento in cui si fa questa operazione, alla fine si va a riconteggiare tutto quello che era stato anticipato con quello che viene richiesto. Poi ci si rende conto in realtà qual è la posizione effettiva, che, ripeto, sempre più spesso non è debitoria ma creditoria. Quindi i consumatori devono assolutamente fare attenzione. Senta, il caso di Vito da Roma, visto che ha subito un danno così importante per la sua azienda, secondo lei è stato anche mal consigliato nella gestione della contestazione all'azienda, alla società che erogava energia? Allora, per rientrare, noi non possiamo saperlo perché ovviamente non abbiamo i documenti, ma visto che la conclusione, l'epilogo di quella faccenda lì è stato molto serio, molto grave, Allora, io ho assistito alla chiusura anche di altre aziende l'anno scorso, sempre dalla stessa società. Il tema che loro, ricorrente, è che continuano a dire che loro non leggono il contatore ma emettono la fattura, e quindi quando gli arriva il dato di chi doveva leggere il contatore emettono la fattura tardiva. Questo è parzialmente vero, perché non dimentichiamo che fino a qualche anno fa Eni possedeva tutte le reti italiane di gas, o quasi tutte, quindi aveva anche la distribuzione in casa, solo da un paio di anni l'ha venduta. L'acquisizione del dato è sempre più difficile da parte loro, perché non fanno l'attività di rilevazione del dato sul territorio. Il cosiddetto omino che va a leggere il contatore mette scusa che il contatore è inaccessibile, ma io sfiderei a vedere quanti di questi noi vediamo in giro per le strade. E poi il problema succede anche, non è un problema solo del misuratore, l'autorità continua a dire stiamo facendo sui misuratori grandi cambiamenti. Cioè, adesso c'è una partita di 16 miliardi di euro in corso, che è quella della sostituzione dei cosiddetti tutti i contatori delle reti italiani, che sappiamo è un business, ma che già oggi i contatori italiani possono essere controllati di remoto a distanza. Abbiamo anche la certezza che molti di questi non funzionano. Adesso non dico le motivazioni, perché più volte ci siamo attaccati con i diretti responsabili. Il tema vero è che c'è un'attività che si chiama distribuzione, che fa l'attività di misura, che viene remunerata in bolletta per fare questa attività, un'attività che deve essere fatta e garantita, che viene coperta da una parolina magica. Si chiama tentativo di misura. All'autorità abbiamo detto più volte che questo tentativo di misura deve sparire, perché non è ammissibile che in 5 anni un'azienda abbia fatto tentativi di misura, certo, e soltanto e poi dopo... ecco, grazie a questo termine attribuisce al consumatore la responsabilità del maxi conguaglio, quindi rovesciamo completamente le responsabilità. Gabriele, sente che c'è la sigletta, dobbiamo sentire il giornale radio, rinviamo il proseguimento della nostra chiacchierata a dopo le informazioni dalla redazione. Poi ci sono anche Paolo Dalodi e Davide da Bergamo, che abbiamo fatto aspettare, ma li sentiremo tra pochissimo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Cuore e denari. Mi parli delle carte con cui mi hai scoperto, bollette trasparenti, gli scatti dei miei sentimenti. Ma dove l'hanno trovata questa canzone qua? Secondo me lei incide, Marco. Ma cosa Lombardo. Gli abbiamo fatto a questi due ragazzi qua? Dove abbiamo perso il controllo della situazione ad un certo punto? Vabbè, comunque complimenti, Marco, perché se le inventa lui, e le Laura, compone. E Laura ne inventa Te ne altre. Devi occupare tu però, qua Mamma seriamente. Mia. Ne dobbiamo chiamare uno bravo per controllarli. Allora, bollette trasparenti. Sono davvero più trasparenti le bollette che stanno arrivando a casa vostra? Intanto diteci la vostra opinione sulla bolletta 2.0, se l'avete già ricevuta. Due documenti, poche informazioni, quelle essenziali, capiamo subito se l'importo complessivo appunto è adeguato ai consumi che pensiamo di aver effettuato, e poi abbiamo capito anche molto chiaramente che composizione ha la fiscalità, che peso ha la fiscalità appunto sulla bolletta complessiva. In realtà stamattina stiamo parlando di nuovo per l'ennesima volta di maxi conguagli. Una battaglia senza esclusione di colpi, ma al momento le vittime sono solo gli utenti, che si vedono recapitare bollette con importi assurdi e spesso non sanno proprio contestarle. E allora questa mattina stiamo rifacendo un po' un vademecum della difesa con il nostro Luigi Gabriele dell'Associazione dei Consumatori e Codici, un argomento che peraltro ci fa girare notevolmente anche gli attributi, per cui abbiamo qua... Allora, sembra è fantastico, incredibile. Hai visto? Buongiorno. Possiamo salutare Andrea Salonia. Buongiorno a tutti. Che è già pronto il nostro educatore alla salute maschile. Educatore alla salute maschile. Come scrivi sul tuo editoriale, che invito i nostri ascoltatori ad andare a leggere. Ottimo. Allora, riprendo in mano la situazione bollette incandescenti, e naturalmente sono molti gli ascoltatori pronti a raccontarci quanto accaduto a casa loro, come hanno gestito la patata bollente. Davide da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Allora, che è successo? Una bella bolletta da 9.000 euro, così tanto per gradire. Sì, a novembre viene recapitata questa bolletta, e perché siamo trentenni e mal coccolone io e mia moglie l'abbiamo preso comunque. ci rechiamo subito il giorno dopo in comune ad Albino, dove risiedo, perché è lì dove questa società è mista pubblico-privata ed è quello anche il grave, cioè oltretutto dove c'è. Senta Davide, guardi, stamattina sono in vena polemica, facciamo nomi e cognomi, chi è la società? La società è la Blu Meta, che è partecipata per circa il 50% dai comuni della Val Seriana, ecco, di Bergamo, la provincia di Bergamo, e per metà da Asco Piave. Ecco, motivo in più per cui con la spending review qua dobbiamo tagliare tutte le partecipate, quindi andiamo avanti anche con questa battaglia, finché non si comporti in maniera chiara diamo battaglia dall'altra parte. Allora Davide, quindi cosa è successo? Come ha gestito questa situazione? Niente, allora, fortunatamente... avendo anche un'attività imprenditoriale, quindi riuscendo anche a avere le conoscenze di legali e quant'altro, ho subito contestato l'importo. Loro mi dicono allo sportello, subito, è anche lì un po' la cosa vergognosa, mi dicono sì, è la prassi, noi mandiamo queste bollette, certo, le contesti, vabbè. Beh, sì. Vai. Uno prende sì, la gente, vedi, così va, tanto che non c'è tempo da perdere, certo, c'è un'azienda, va a contestare il loro operato. Davide, cosa faccio, esatto, oggi? Contesto, ha fatto quello che ha detto Luigi Gabriele prima, ha cercato di farsi riconteggiare i consumi per effettivamente capire se fosse giustificato l'importo che le hanno chiesto. Allora, cosa è successo? Il contatore, loro mi hanno detto che si è rotto. E mi hanno quantificato una cifra monster di metri cubi in 9.000 nel periodo di un anno e mezzo e così via. Allora io fortunatamente ho conservato tutte le bollette degli anni passati, degli anni addietro, e ho dimostrato che l'abitazione, essendo sempre residente in due, non è diventata né più grande né più piccola, e quindi è sempre rimasta quella, non avendo perdite e non avendo nulla di che, ho dimostrato che il mio consumo era esattamente di un terzo, di un quarto rispetto a quello che loro mi volevano far pagare. E alla fine adesso hanno riconteggiato il tutto, chiedendomi anche le scuse, e mi hanno decurtato la cifra di 5.000, quasi 6.000 euro. Perché giustamente c'è stato un periodo che era rotto il contatore, ma io ho sempre pagato anche quello, e mi hanno dato la colpa, come ha detto il dottor Gabriele, che dovevo fare io l'autolettura. Allora Davide, qua in termini giuridici, Gabriele, se non mi sbaglio, questo principio si chiama inversione dell'onere della prova, cioè il consumatore che deve dimostrare di avere ragione e non torto. Ma dove siamo finiti qua? Proprio in una giungla, Gabriele? No, ma che poi oltre a questo i consumatori sono oggigiorno sempre più tartassati delle offerte commerciali, che sì, capisco l'apertura del mercato, ma il fatto che un'apertura del mercato con un'attività così invasive di perseveranza nel chiamare, andare a casa del cittadino per fargli cambiare a tutti i costi il fornitore, ci aggiungiamo anche il fatto che le agenzie in una buona parte purtroppo utilizzano metodi che non sono assolutamente di mercato, ma sono appartenenti a quelli che il codice penale definisce come truffe e raggiri. Questa roba qui sarà sempre di più in funzione della totale liberalizzazione che, ahimè, purtroppo già anticipo, non andrà come le liberalizzazioni democratiche e sane nei paesi effettivamente commercialmente corretti, ma che avverrà nel 2018, che sposterà 20 milioni di utenze sull'energia, 7 milioni di utenze sul gas, da quella che è la cosiddetta area di tutela, dove il prezzo viene definito dall'autorità, dove, sì, ma non tanto sul prezzo, le tutele ci sono soprattutto sui diritti dei consumatori, che i consumatori devono sapere che oggi c'è una grande disparità tra coloro che sono sul libero e coloro che sono tutelati. Quelli che sono sul tutelato, se ricevono una bolletta salata, in qualche modo possono rateizzare secondo i principi. Esatto, ce lo diceva prima la Poletti, perché invece ha aderito al mercato libero non ha neanche questa facoltà, questa opportunità. E facessero attenzione, perché per uno sconto di 5 euro all'anno, sì, quando, esatto, gli arriva la badossa di 10.000 euro, si ritrovano che se non pagano subito gli staccano tutto. Infatti, tra l'altro, il problema è che poi non se li prendono nemmeno quelli dopo, esatto, perché li considerano come morosi. Allora, no, quello che stavo pensando, Gabriele, se il ginepraio in questo momento è questo, non oso pensare a cosa succederà quando il canone in bolletta arriverà dalla prossima estate, perché lì queste io... sono altre risate che ci faremo. Ieri ne discutevamo, il tema che oggi, ad oggi, alla data odierna, l'Agenzia dell'Entrata non abbia diramato quello che doveva fare, ovvero i procedimenti attuativi di tutto questo, il Ministero non sappia che se uno fa un reclamo su una bolletta perché la ritiene ingiustificata e non la paga, diventa anche evasore a causa del fatto che non ha pagato le 10 euro del canone RAI. qui siamo sull'assurdo dell'assurdo, perché accadrà certamente questo che vi sto dicendo, anche perché sarà difficilissimo che il consumatore scomputerà le sole 10 euro che dovrà dare per quel mese al canone RAI e rimarrà in assoluto tutto il resto, e quindi ne vedremo delle belle. Già immaginiamo contenziosi per qualche centinaio esatto, di infatti si arricchiranno i recuperatori del credito, gli avvocati e tutti quanti gli esperti, diciamo, del campo. Allora, io veramente stamattina non so come poter dar spazio a tutti gli ascoltatori, perché qua vedo che a vario titolo chi il gas, chi la luce, chi una situazione nebulosa di vario tipo, appunto, ha un caso da raccontarci. Io invito tutti gli ascoltatori a scriverci a cuoredenari@radio24.it. Scriveremo con Luigi Gabriele un vademecum generico intanto da poter divulgare per tutti gli ascoltatori. Faremo un link tra i nostri social network e Codici, che è attivissima su questo fronte, ormai è diventato il loro grande cavallo di battaglia insieme a quello di altre associazioni dei consumatori. Romano da Terni voleva raccontarci che anche a lui è arrivata una bolletta della madre, naturalmente deceduta, perché poi anche sui morti chiaramente si specula, persone che non consumano più nulla da anni. Beh, ma naturalmente direi, non so perché gli operatori li trovano e rivendicano il pagamento appunto di bollette pregresse, 4 anni di letture che non vengono considerate, si lamenta ancora Romano. Per cui davvero un ultimo suggerimento finale su come gestire il maxi conguaglio che dovesse malauguratamente arrivare prossimamente, Gabriele. Non spaventiamoci, intanto una rassicurazione finale da parte dell'Associazione dei Consumatori. Comunque, con mente molto fredda, prendete la fattura prima di decidere di effettuare il pagamento, consultatevi con un'associazione consumatori. Ci sono sportelli energia di tutte le associazioni consumatori, ci trovate in internet, se volete andate sul nostro sito. Comunque, una verifica preventiva fatela fare, qualcosa emerge sempre, quindi io vi consiglio, se non volete buttare i vostri soldi, almeno controllatela. Sappiate che il termine per effettuare un reclamo comunque deve essere massimo il termine di 10 giorni dopo dalla scadenza della fattura. Sappiate che comunque non c'è il rischio della chiusura immediata del contatore, ma quando si fa la contestazione poi si ha sempre la possibilità di interrompere le procedure di riduzione del flusso. E quindi tutte le minacce che fanno, insomma, lasciano il tempo che trovano, quindi non spaventatevi, però attivatevi, ecco, non lasciate che il tempo corra così inutilmente. Grazie a Luigi Gabriele. Grazie, buona giornata. A presto. Grazie a tutti voi. E buon lavoro giornata, perché ne ha proprio bisogno dei nostri amici. Ne abbiamo molto, grazie mille. Dammi 3 parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che non fa parlare. Beh, pure questa non me l'aspettavo. Sentiamo. Perché sono 3 le parole su cui ci concentreremo oggi nella puntata di Salute Uomo. 3 parole chiave, 3 sintomi. In studio con noi l'abbiamo già presentato, è tornato a trovarci il professor Andrea Salogno, urologo, andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, responsabile scientifico del progetto Salute Uomo di Cuore Denari. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti. Allora, dolore, bruciore, rossore, queste sono le 3 parole su cui concentreremo la nostra attenzione. Sì. Ma 3 parole, allora dai 3 buone ragioni ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per raccogliere il nostro invito e quindi chiamare sin da ora il nostro numero verde 800 24 0024. Voilà. Ma io penso che si possa partire dal titolo dell'editoriale che ho scritto per questa puntata. Domandare non è male, e anzi, chi domanda non è pazzo. Me l'ha detto realmente un paziente alcuni giorni or sono, a me è piaciuto tantissimo. E credo che valga la pena pensare di domandare in termini di dolore, di bruciore e anche di rossore, che sono 3, se vogliamo, sintomi e segni banalissimi che nella quotidianità spesso ci capita di avvertire, certo, di incontrare. Se li pensiamo al maschile, fanno parte molto spesso della genitalità, e lì si può veramente aprire un'enciclopedia di possibili cause e di moltissime soluzioni, per cui domandare del problema risulta essere sicuramente la carta vincente. Allora, aggiungiamo un altro motivo per intervenire. raccontateci che cosa, secondo voi, mette o potrebbe mettere in crisi la mascolinità del vostro partner. Potete scrivercelo su Facebook, su Twitter, mandarci un SMS, scriverci su WhatsApp oppure chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24. Siamo andati dai diretti interessati per validare la formula e ampliare il campione. Cominciamo con i The Color, vincitori di amici e idoli delle ragazzine. Devi leggermi questo numero. 15,03. Poi Paolo Conticini, conduttore Rai e storico partner cinematografico di Christian De Sica. Lo abbiamo raggiunto in teatro. Caro Paolo, vorremmo che tu ci leggessi questo numero. 17,64. Cioè, è una bella misura, però, insomma, se penso quello che pensi te, insomma, è una bella misura. Ora Luca Ward, attore di fiction e voce del gladiatore. Ti devo far vedere un fogliettino. 17,61. Noi quando eravamo ragazzini a Ostia ci misuravamo il pipo. E dopo il doppiatore, il cantante Valerio Scanu, già vincitore. Stiamo ascoltando un servizio delle Iene che hanno sviluppato un sistema metrico genitale. Andrea, basta conoscere l'altezza, la lunghezza del piede, la circonferenza dei glutei, la lunghezza dell'indice, la differenza indice anulare e moltiplicarle per dei coefficienti. Ma questo per dire che la sindrome da spogliatoio di cui ci siamo occupati anche a Cuore Denari è un cruccio di molti uomini, ma non è il solo. Per questo vi abbiamo invitato a raccontarci che cosa, secondo voi, mette o potrebbe mettere in crisi la mascolinità del vostro partner. Andrea, tra l'altro, ci si può far mettere in crisi da un falso problema o da un problema per cui invece esiste una soluzione efficace e sicura. Quindi, come anticipavi tu, meglio parlare, condividere, perché l'importante è affrontare la situazione, farsi aiutare, perché in alcuni casi tacere o sottovalutare la situazione può mettere a rischio la salute, ma anche la salute della coppia. Allora, quindi sciogliete ogni indugio, chiamateci, e per facilitarvi proprio questo compito abbiamo deciso di parlare di questi tre sintomi molto comuni che non creano imbarazzo, ma che in relazione al modo in cui si presentano possono fornire indizi importanti. Bruciore, dolore e rossore, sintomi comuni a diverse condizioni e possono infatti segnalare, Andrea, infezioni virali o batteriche, ad esempio. Assolutamente vero. Partiamo ad esempio dal bruciore. Purtroppo non è sempre rappresentativo di una infezione banale, talvolta anche di una infezione molto più importante. Se partiamo dal sesso, tra virgolette, gentile o debole, come è solito chiamarsi, le signore lamentano spesso bruciore urinando, le famose cistiti. Esiste un equipollente esattamente al maschile. Sono rare quelle che chiamiamo cistiti maschile o l'infezione delle vie urinarie chiamate appunto cistiti nell'uomo. Sono molto più frequenti, molto più importanti, sintomatologicamente molto più significative quelle che chiamiamo prostatiti, cioè delle infezioni batteriche della prostata, che spesso si caratterizzano per la presenza di bruciore importante durante la minzione e non solo, talvolta con febbre ma non solo, e sono realmente sintomi questi particolarmente disturbanti. È difficile che un uomo affetto da prostatite acuta, quindi con bruciore così importante, non vada da un medico. Molto più difficile che vada immediatamente a chiedere aiuto l'uomo che invece lamenti un bruciore persistente, talvolta non solo legato al momento in cui urina, cioè alla minzione, talvolta appunto persistente, quasi come avesse lì la percezione di "io sento la prostata". Questo è il tipico riferimento a cui i pazienti affetti da quelle che chiamiamo prostatiti croniche tendono sostanzialmente a riferirsi. Quindi una sorta di peso doloroso? Un peso doloroso che non è solo a livello della cosiddetta prostata, ma è a livello del perineo, quindi tra lo scroto e l'ano, è a livello del sovrapubico, è a livello dell'uretra, a livello del pene in toto, e quindi è particolarmente importante. Poi ci sono infezioni meno conosciute, talvolta causa di bruciore, prevalentemente lungo l'uretra, lungo quel canale che porta le urine dalla vescica fino alla punta del pene, quindi all'esterno. Lì si concentrano infezioni spesso misconosciute, molto frequentemente trasmesse dopo o durante un rapporto sessuale, appunto da quelli che si chiamano agenti microbici da trasmissione sessuale, molto più complessi di quanto non siano gli agenti batterici usuali. Quelli della prostatite o della cistite sono generalmente agenti batterici che afferiscono al gruppo delle cosiddette enterobatteriacee, cioè degli agenti che noi abbiamo usualmente a livello dell'intestino, ma che in alcuni momenti si della nostra vita più, tac, e... tirano sulla cresta. Esattamente, tirano sulla cresta e si spostano da quello che è il loro alveo naturale, l'intestino stesso, fino al distretto urogenitale. Quando invece le infezioni sono contratte durante i rapporti, il problema è molto più significativo e si parla di agenti microbici che, se non cercati nello specifico, non vengono identificati. Vi faccio tre nomi: la clamidia, l'ureaplasma e banalmente la sifilide. Questi tre, che pensavamo in parte completamente eliminati, la sifilide in primo luogo, in realtà hanno avuto una vera e propria forma di revival, legata soprattutto a rapporti sempre più precoci, ed è infatti molto più frequente che vengano contratti dai ragazzi nella fase adolescenziale. Ecco, per questo noi oggi abbiamo deciso di sottoporvi, di partire da questi sintomi, perché vogliamo segnalarvi che si registra un aumento di certe malattie sessualmente trasmissibili che sembravano essere scomparse. Malattia esatto. Di cui i giovanissimi non conoscono neppure l'esistenza, tantomeno i sintomi sospetti, e che ricordiamo possono manifestarsi questi sintomi anche a distanza di settimane. Assolutamente sì. 800 24 00 24. Abbiamo messo sulla nostra pagina di Cuore Denari anche un approfondimento del professor Umberto Borellini, cosmetologo, sì, autore della Divina settimana scorsa. Cosmesi, edito da Mondadori. Perché? Perché abbiamo deciso di proporvi anche un approfondimento sull'igiene intima maschile. Andrea, sei d'accordo? Sì, perché si parla e ci sono tanti prodotti per l'igiene intima femminile, ma ci sono degli errori che noi volevamo segnalare e che gentilmente il professor Borellini ci ha fatto un pezzettino, potete ascoltarlo. Quindi, qual è il detergente migliore da utilizzare in un uomo, quali caratteristiche deve avere, perché la saponetta va assolutamente abbandonata. 800 24 00 24, naturalmente aspettiamo le vostre telefonate, raccontateci anche che cosa secondo voi mette o potrebbe mettere in difficoltà la mascolinità del vostro partner, qual è il complesso che avverte o potrebbe avvertire. Intanto Andrea, invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci se hanno dolore durante la menzione oppure bruciore, oppure se avessero rossori di varia natura, anche minuti rossori a livello del pene, come a livello dello scroto, come a livello inguinale, oppure se ci fossero banalmente delle protuberanze, come spesso vengono chiamate dai malati, a livello del pene, soprattutto dello scroto o anche della regione perianale, che purtroppo spesso afferiscono al gruppo dei cosiddetti condilomi da virus del papilloma, che è nel maschio parimenti importanti come nella donna. Allora, è una sfida sempre più importante, proprio rappresentata dal virus HPV, meglio conosciuto come papillomavirus, di cui vi parleremo subito dopo i mercati, perché è considerato, è vero, il primo responsabile dello sviluppo dei tumori alla della cervice nelle donne, ma i dati sono comunque allarmanti anche sul versante maschile. Quindi attenzione, 800 24 00 24, ripeschiamo il titolo dell'editoriale di Andrea, chi domanda non è matto, esatto. Quindi fate la vostra domanda e adesso ci domandiamo come stanno andando i mercati. Guarda, stamattina ho delle ottime notizie per voi. Oh, evviva! A tra poco. Cuore e denari. Seconda parte di Cuore Denari, oggi, ultimo venerdì del mese, parliamo di prevenzione al maschile. In studio con noi Andrea Salogni, andrologo, urologo, consulente scientifico di Salute Uomo, e questo appuntamento mensile che abbiamo pensato e organizzato per affrontare con chiarezza, rigore scientifico, e i dubbi, i problemi che riguardano la salute e il benessere dell'altra metà del cielo. E quindi vi invitiamo a chiamare. Devo dire che stiamo facendo un bel lavoro di cui andiamo fieri. Sì, abbiamo avuto un'ottima risposta da parte vostra e non solamente da parte degli uomini all'ascolto, ma anche delle loro compagne. 800 24 00 24. Facciamo un rapido menu dei temi che toccheremo in questa ultima mezz'oretta di trasmissione. Sicuramente parleremo del papillomavirus, che è un attenta alla salute maschile, non solamente a quella femminile, bisogna conoscerlo. Attenzione, alcune malattie sono tornate, malattie di cui i giovani uomini non hanno mai sentito parlare. La sifilide, il cosiddetto mal francese, la gonorrea. Quindi, e poi ce ne sono alcune che nessuno mai nomina, l'ureaplasma e la clamidia, ma che sono ancora ampiamente presenti nella popolazione maschile. Abbiamo parlato tante volte di infertilità, non vi sto neanche a dire quanti siano gli uomini infertili proprio con una misconosciuta infezione. Allora, abbiamo i nostri ascoltatori Renato da Padova, Marco da Verona e Claudio da Pordenone. Ottimo. Vi invito anche su Twitter, su Facebook, via WhatsApp a raccontarci qual è secondo voi il problema che potrebbe mettere in discussione la mascolinità del vostro partner. 800 24 00 24. Prima di passare la linea ai nostri ascoltatori, Andrea, quali sono i sintomi o i segnali che un uomo deve conoscere, soprattutto saper riconoscere su di sé per poter essere, come si dice, un soggetto attivo nella prevenzione e nella protezione della propria salute e di quella della coppia? Partiamo dalle malattie sessualmente trasmesse, che è purtroppo già di per sé molto difficile identificare. La più parte delle volte il soggetto che ne è infetto non lo sa. Ma ci sono dei segni? Ci sono sostanzialmente dei segni. Innanzitutto i famosi bruciori, di cui talvolta tendiamo a misconoscere l'importanza, sono un elemento significativo. La presenza di secrezioni uretrali, altro elemento importante, la presenza di bruciore associato a rossore sul glande piuttosto che a livello dello scroto sono un altro elemento importante da tenere in considerazione. Allora, naturalmente metteremo questo taglio sulla pagina di Cuore Denari, perché come noi vogliamo fare informazione e prevenzione, quindi mettere a vostra disposizione tutte le informazioni possibili. Andiamo a Renato da Padova. Buongiorno Renato. Buongiorno Nicoletta, il suo esperto. Ascolti, io la chiamavo perché ho sentito che parlava di bruciori. Io è da un anno che purtroppo vado avanti, ho fatto visite andrologiche e tutto quant'altro, esami, tampone uretrale, sono risultato tutto negativo. Però il problema persiste. Persiste, ecco. E sì, mi sembra che sia grave. È possibile. E tenga presente che sono sotto permixon e alfa-suzina. Sì, da circa un anno. È possibile, è quello a cui facevamo riferimento prima. Ci sono sostanzialmente dei casi in cui l'infezione non è riconosciuta perché talvolta è all'origine del bruciore, ma così all'indietro nel tempo, se così si può dire, da non poter essere più identificati in nessun esame culturale tradizionale. E in questi casi che si fa? In questi casi si pensa ad una prostatite cronica su base abatterica. I due prodotti a cui il paziente e questo signore nostro ascoltatore, Renato, scusate, faceva riferimento, sono esattamente quelli che vengono utilizzati il più spesso, cioè un fitoterapico, la cui molecola si chiama Serenoa Repens, che ha un'azione tipicamente antinfiammatoria a livello prostatico e la cui bontà d'azione si deve evincere nell'arco di mesi e mesi e mesi di terapia. Oggi la suggeriamo per non meno di 24 mesi consecutivamente. 2 anni. La seconda delle terapie a cui faceva riferimento, alfuzosina, invece un farmaco alfalitico, serve a rilassare la muscolatura liscia della prostata e del collo vescicale. Bisogna però cercare di tranquillizzare quest'uomo, perché purtroppo è certo vero che spesso questo tipo di problematiche non trova soluzione immediata, tal'altra tende a cronicizzarsi e bisogna cercare di essere, e in questo è fondamentale la prevenzione o il domandarsi perché un bruciore è cominciato, bisogna essere il più repentini possibile nell'identificazione del sintomo d'esordio per poter cercare di ridurre la probabilità di una cronicizzazione successiva. Quindi bisogna intervenire subito, sì. Parlatene con il vostro, esatto, medico. Esatto, bisogna farsi domande e non vergognarsi di farle. Marco, buongiorno, da Verona, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, io vado avanti da un po' di anni, però prostatite è passata. Però persiste il fatto che mi alzo 1 o 2 volte di notte per menstruare, ogni 4 ore massimo devo farla, ma resistendo 4 ore. Se bevo una birra in pizzeria è finita, un bicchiere di vino frizzante in particolar modo spacciato per due giorni e due notti di bruciore. E poi lui tra l'altro abita anche a Verona, poverino. Sì, esatto. Dove comunque il si prosecco beve benissimo. Però in realtà adesso non riesco a dare un'interpretazione correttissima dell'età del nostro ascoltatore. Però è sempre vero che tanto più l'età tende ad aumentare, tanto è meno probabile che si parli di problematiche legate a un quadro di tipo infiammatorio su base infettiva. È molto più facile che questo signore soffra dei disturbi che abbiamo spesso descritto come sintomi menzionali del basso apparato urinario di tipo irritativo, per cui il sintomo a cui faceva riferimento si chiama nicturia, la necessità di alzarsi spesso durante la notte, si è svegliati dalla necessità di urinare durante il sonno e il sonno viene francamente frammentato. È comunque vero che esistono terapie anche per questo, una delle quali ad esempio è quella famosa alfuzosina che abbiamo prima a cui abbiamo prima accennato. Oggi ne esistono anche di più moderne, ma da un punto di vista terapeutico ci sono varie soluzioni. Allora andiamo al tema che abbiamo anticipato, avremmo voluto affrontare, il papillomavirus. Sì. Diciamo che è una grande famiglia. Ad oggi, Nicoletta, ce ne sono più di 120 tipi. Wow. Oggi si parla di genotipi diversi, non tutti hanno le stesse caratteristiche. La scienza virologica li ha distinti in due grandi gruppi, come se appartenessero a due famiglie diverse, purtroppo ben comunicanti tra loro. Ci sono quelli che danno i cosiddetti condilomi, le creste di gallo, la letteratura ne ha francamente descritti di tutti i tipi. Sono meno aggressivi, in questo senso i più comuni sono due, che hanno numeri 6 e 11 nella loro definizione, ed hanno quelli che si chiamano appunto condilomi. I condilomi, che sono quelle masserelle, quelle protrusioni, oppure talvolta sono piatte, tipicamente al femminile a livello della vulva, della vagina, piuttosto che della cervice, nel maschio sono a livello penieno. Identificare queste è fondamentale, ed è fondamentale ricordarsi che non sono solo a livello penieno, sono anche a livello anale e perianale, non solo nei soggetti con rapporti omosessuali. Il 13% di questi condilomi sono anche negli eterosessuali a livello perianale. In ogni caso, gli studi più recenti segnalati dall'Istituto Superiore di Sanità mostrano che nei maschi il livello di infezione genitale è del 50%. È altissimo, ecco. E c'è una predisposizione al maschile. Paradossalmente, tutti gli studi virologici sottolineano come le donne subiscano una più probabile evoluzione di tipo oncologico, ma è più frequente ed è più probabile che i maschi ne vengano ad essere infettati e ne siano latori, benché senza saperlo. Poi esiste il secondo gruppo, di quelli i cui numeri principali sono 16 e 18, che sono più probabilmente legati a tumori, che nella donna sono tipicamente a livello della cervice uterina. Infatti il vaccino HPV è considerato un vaccino antitumore nella donna, stamattina, no? Perché protegge, ce ne sarà tra poco, ne parleremo senso, perché esce nuovo vaccino. Stamattina sono andato sul sito del Ministero della Salute e se si cerca in quel sito specifico vaccinazione per l'HPV, compare esattamente una vaccinazione quadrivalente per quattro ceppi, i quattro che abbiamo definito noi, 6, 11, 16 e 18, solo al femminile purtroppo, nelle ragazzine generalmente attorno ai 12 anni. Oggi esistono invece in tutti gli Stati Uniti, soprattutto, ma arriveranno anche in Europa, dei vaccini quadrivalenti al maschile, ed è stata dimostrata la possibilità di trattare non solo gli adolescenti in quella fascia d'età, ma anche i soggetti fino ai 45 anni, che è fondamentale perché non bisogna misconoscere la probabilità che questi soggetti possano sviluppare che cosa? Tumori al pene, che sono sempre più frequenti. Sempre più frequenti. E poi c'è un altro aspetto di cui forse parleremo prossimamente, legato alla possibilità che queste infezioni vadano a coinvolgere non solo i genitali esterni, ma anche il cavo orale, anche in funzione della possibilità di rapporti orali. Questo è importantissimo ed è vero soprattutto al maschile e anche al femminile, ma è soprattutto vero al maschile, non si può assolutamente misconoscerli. Claudio, buongiorno da Pordenone. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. Io mi riconosco un po' nell'ultimo radioascoltatore che ha mostrato la sua esperienza. Claudio, la stiamo perdendo. Parli vicino al telefono. Sente? Sì. Dicevo che mi riconosco abbastanza nell'ultimo ascoltatore, perché praticamente anche io ho avuto un periodo dove dopo un rapporto sessuale, il giorno dopo, dopo due giorni, un grosso bruciore e rossore. Parlando con un medico mi aveva detto che probabilmente poteva essere dal preservativo, dal lattice del preservativo. Quindi male. Un'allergia che è possibile, che è possibile. È possibile. La cosa più frequente in questo senso, però, se devo essere onesto, nella clinica quotidiana è la possibilità di una candidosi, cioè di una micosi, un fungo che è tipicamente a livello così vaginale. Giacomo, così contentato, Giacomo è perché contentato. Ci ha tempestato di messaggi, ecco. Perché voleva che affrontassimo anche questo Andiamo problema. Alla candida. La candida è estremamente frequente al maschile come al femminile. Nel maschio tende a dare quelle che si chiamano balanopostiti, che sono delle infezioni su base micotica del glande e del prepuzio, talvolta ricorrenti, ed è estremamente importante ricordare che esiste una sorta di ping pong tra soggetti di sesso femminile e maschile durante i rapporti, per cui il non trattare l'uno induce la persistenza del problema e l'infezione del compagno. Questo è estremamente importante perché talvolta il rossore non è solo a quel livello, può arrivare a livello della piega inguinale, dove tra lo scroto e l'inguine stesso la possibilità che persista una temperatura più elevata e ci sia umidità fa sì che il nostro agente microbico, questa volta un fungo, come abbiamo detto, proliferi. Sì, praticamente un invito a nozze. Esattamente, per lui è allora, un tabulum ideale. Vedi, allora noi adesso dobbiamo andare a sentire le informazioni sulle strade e sulle autostrade. I nostri ascoltatori via WhatsApp ci hanno proposto dei temi molto interessanti anche per prossime puntate. Giuseppe, ad esempio, ci segnala a proposito dei problemi che possono in qualche modo compromettere la mascolinità. Dice che una delle criticità che ha portato poi di fatto a sciogliere l'ultimo rapporto di coppia era un continuo attenzionamento e a volte messa a confronto con precedenti partner, pur non avendo mai avuto problemi, ci scrive, a soddisfare le mie partner, sono andate in crisi. Un altro ascoltatore invece ci scrive che allena una squadretta di calcio maschile di ragazzi di età tra i 17 e i 20 anni e nota che si fanno quasi tutte la doccia coi boxer. E alla mia domanda del motivo hanno risposto che lo fanno sempre così da quando giocano, ma a casa invece la situazione cambia, è tutto diverso. Ma lui sta cercando una risposta, perché confrontandosi con altri allenatori che fotografano una situazione analoga, ci invita a indagare anche un po' sulla sindrome da spogliatoio. Di quello di cui abbiamo parlato, io non ho nulla, lo dico senza timore di offendere nessuno, non ho nulla contro il servizio delle Iene, ma un servizio di quel genere è deleterio in questo senso. Perché la sindrome da spogliatoio, addirittura esacerbata da un confronto mediatico di questo genere, non può altro che essere di mettere in crisi, soprattutto in una fase, una fase della vita molto delicata, che è quella dell'adolescenza. Strade e poi di nuovo insieme. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Cuore e denari. Rosso, relativo, senza macchia d'amore, ma adesso. Rossore, bruciore, dolore. Tre segnali che stiamo così osservando e di cui stiamo parlando insieme al professor Andrea Salogni in questa puntata di Salute Uomo. Abbiamo proprio scelto questi sintomi che sono molto diffusi, che vengono spesso sottovalutati, che possono segnalare anche delle situazioni assolutamente normali, magari essere spia di un'igiene intima non adeguata, non completamente corretta, e quindi andate a sentire il post del professor Borellini, ma possono invece essere spia di problemi molto più seri, e quindi oggi li abbiamo scelti proprio per avere l'occasione di parlare con voi di malattie sessualmente trasmissibili. Ce ne sono alcune che stanno tornando colpiscono soprattutto anche i più giovani, che non hanno avuto le adeguate informazioni, evidentemente, sì. Nonostante le campagne, siamo ancora abbastanza bloccati dal gol che ci si era prefisso. Abbiamo parlato anche di HPV, il papillomavirus, che è un nemico della salute maschile, ma anche vi invitiamo a non sottovalutare il dolore e il bruciore, che possono trasformare la vostra un'infezione in un'infezione cronica, e quindi da cui poi non è difficile riuscire ad arrivare al vero responsabile e quindi a eliminarla. Andrea, secondo me, Nicoletta, se possiamo pensare di combinare tre degli aspetti di cui abbiamo parlato, la cosmesi, quindi fondamentalmente l'igiene locale, piuttosto che il rossore, il bruciore e la possibilità di evoluzione in malattie molto serie, Partiamo da questa considerazione. Danno della mascolinità o di quel sentirsi da, che non è proprio sindrome da spogliatoio, ma del non sentirsi adeguati. La tendenza dei ragazzi, degli uomini, è quella di non scoprire il glande tirando verso il basso la pelle del prepuzio. Questo è un errore dell'igiene gravissimo. Spesso è lì che si annidano gli agenti microbici ed è lì che si vanno a nascondere banalmente l'HPV e tutti i condilomi, oppure fondamentalmente infezioni anche meno serie di per sé, ma che diventano serie laddove si crei un danno della pelle difficilmente poi emendabile. Vedi che la prevenzione può essere facile se riusciamo a superare gli imbarazzi, esatto, come un po' abbiamo fatto noi donne da sempre, perché siamo abituate a confrontarci con il ginecologo. Lo sforzo e l'impegno di salute uomo, se ce lo riconoscete, se ne siamo felici, è proprio quello di aver sdoganato alcuni termini, alcune situazioni, tematiche. Alcune tematiche, proprio perché la prevenzione può essere semplice. Chi domanda non è matto, in alcuni casi può addirittura salvarsi la vita e salvare la salute della coppia, perché è importante. Siamo responsabili anche del nostro partner. Assolutamente, ecco. Sì, tenete conto che quello che è stato fatto in termini vaccinali, torniamo ancora una volta al virus dell'HPV, il fatto di andare a vaccinare una signorina, perché qui in Italia si possono vaccinare a 12 anni le ragazzine, non c'è ancora una procedura di vaccinazione maschile, il che è una follia, ma da un punto di vista pratico il fatto di vaccinare una ragazza riduce la probabilità che questa sia l'attrice di infezione e quindi riduce fondamentalmente la possibilità che anche il suo compagno e i suoi compagni ne vengano infettati. In termini economici, perché poi bisogna sempre perché arrivare c'è anche lì, la donna di denari qua, sono qua pronta, esatto, in termini economici questo ha ridotto la possibilità di una spesa per la sanità su base nazionale enorme. C'è un dato americano recente in cui si è dimostrato che semplicemente modificando il numero di ceppi virologici per i quali il vaccino ad oggi disponibile, 4 ceppi, 6, 11, 16, 18 dell'HPV, a 9 ceppi, aggiungendo altri 5, ha ridotto la spesa sanitaria potenzialmente di 2 miliardi di euro, il che vuol dire che da un punto di vista di salute il prevenire in questo caso diventa estremamente proficuo. Ora, se torniamo nella nostra realtà quotidiana del fatto di farsi la doccia quotidianamente scoprendo il prepuzio, perché questo permette di esporre tutta la superficie, e alle mamme dei bambini, esatto, noi invitiamo le mamme o il papà ad insegnarlo ai loro bambini quando sono già piccoli. Attenzione in quel caso però a non esercitare pressione eccessiva o non determinare spavento o manifestazioni di quasi aggressività sul pene del bimbo, perché in quel caso si vanno a creare dei traumi che poi verranno perpetrati anche nell'adolescenza successivamente. Cioè i pediatri, gli urologi pediatri che si occupano di fimosi, cioè di pene che non è completamente scoperto perché il prepuzio è particolarmente calzato sul glande, raccomandano sempre di non esercitare, esattamente, di non insistere, ma soprattutto di non farlo con forza, perché il trauma derivante dal bambino che se ne spaventa può essere lesivo. Allora, Simone da Modena, e poi ne abbiamo un altro Simone da Lodi. Simone da Modena, breve, per avere la risposta da Andrea. Buongiorno. Io chiamavo perché ho una macchia da anni all'uscita dell'uretra, ho fatto il tampone uretrale negativo, e ho fatto tutti gli esami culturali, sono tutti negativi. Ho questa macchia che poi si espande sul glande 2 o 3 volte all'anno, facendo delle piccole macchie rosse su tutta la zona. Se posso, Simone, la cosa importante qui non è tanto e non è solo andare a identificare la presenza di un germe, ma è riconoscere una patologia che nel suo caso è sicuramente di tipo dermatologico. La dermatologia è una delle scienze più difficili a livello cutaneo, perché la possibilità di andare sostanzialmente a identificare delle aree e dare loro un nome diventa importantissima. Banalmente non sarà il suo caso, ma i rossori del pene che nascono come aree singole sono da identificare sempre, non è facilissimo, ma possono andare dall'essere delle precancerosi fino all'essere delle banalissime lesioni scoriative. Quindi le consiglio di andare da un dermatologo. Simone da Lodi, ce la fa rapidamente? Sì, buongiorno. Grazie. Informazione velocissima. Allora, io ho avuto una prostatite fulminante, quindi senza bruciori, senza preavvisi, dolore al testicolo, ai testicoli lancinante. Mm. Ho fatto 2 settimane di punture, quindi antibiotici, e tutto, sono guarito, ma io sono 10 anni che ho avuto questa prostatite. Ogni tanto, spesso, diciamo, ho ancora dei lievi dolori. E questo è possibile. Quello che le è successo, verosimilmente, è una infezione anche dei testicoli, meglio ancora degli epididimi, che si chiama orchiepididimite. Il fatto che persistano o ricorrano fa sì che lei debba andare dal suo urologo capendone una causa potenzialmente responsabile, difficilmente attribuibile a qualcosa che sia diverso da un'ostruzione menzionale. Quindi se il dolore ritorna, andate a farvi dare una controllata dal vostro medico. Perché chiedere non è da pazzi. Il nostro medico preferito torna per la salute al maschile ma il non venerdì. Diciamolo agli altri. Per la salute maschile, ho detto. Per il venerdì di marzo. Intanto noi invece ci... Torniamo lunedì, guarda, qua l'appuntamento è fisso, non potete mancare, vi aspettiamo alle 10.30. E vi invitiamo anche ad andare a leggere le storie dei malati rari, il nostro progetto.